che ho sempre in mente. L'unica ragazza che ho voluto bene veramente. Cupido mi ha centrato, da quel giorno mi sono innamorato. Ehi principessa, fammi sognare, fammi rivivere quelle serate. Le mie sono serenate, mai state sceneggiate. Testi veri, sentimenti veri, ripensando da ieri, momenti sereni. Ripensando al passato, sì, quello che è stato stato. Sulla panchina, sì, quel freddo baby di quell'inverno. Uno sull'altro, ricordi? Era caldo, bastava uno sguardo, un abbraccio, poi nient'altro. Forse un messaggio in mente rimasto. Esci stasera, ok, a sotto passo. Sì, mano nella mano, una volta un bacio. Bevo me, bacio, bevo me, bacio. Sempre nel cuore, quella niente. Amore e amicizia, mai finta. Amore e amicizia, mai finta. Non crederà mai. Amore e amicizia, mai finta. Scrivo rima a te, che sei per me l'ispirazione dei miei testi, di questi versi che canto pensando a giorni diversi. No, questi con un piano sotto. Scrivo parole e poi sprofondo in un pianto. Dicevano fe, non fa per te, ma ti canto questo rap. Ricordando flashback, fuori nevica nel ciel. Un SMS, che bella neve, beh, è già mentre quello mi dice, non te la darà. Ci credevo davvero sul serio, ma è andata così. Tra me che mi tiravi indietro, se ti scansavi, che figura da scemo facevo. Continuo a scrivere su fogli bianchi che verranno scritti per amarti, pezzarti nei giorni più tristi. Quando sarò giù, mi tirai su. Con un rapper ha un cuore e fa soffrire per amore. Fate questa canzone rimata, cantata, una frase per te sputata. Con un microfono in mano registro la mia voce, che possa poi trasmetterti un'emozione. Un del vinile va a partire, la traccia per finire. Ricorderai quei giorni come un film, che sarà per iniziare e poi la fine. Come sarà non si sa, chissà se mai ci sarà. Il cuore, nella mente, amore e amicizia.